Perciò, poco incisivo, l'artigianato pure, la maggior parte, il 90 o il 99%, erano contadini e vivevano soprattutto dell'allevamento del bestiame che compravano in Valposteria e vendevano nel vicino Veneto. Purtroppo le incognite erano molte. Bastava una malattia, i prezzi troppo bassi, troppo alti. Se c'era una epizoozia, cioè epidemie che colpivano gli animali, veniva eretto un cordone sanitario e non si poteva più andare oltre il confine e i fodomi non potevano più vendere il bestiame, dunque non avevano più introiti. Era già una popolazione povera, ci si può immaginare quante difficoltà incontravano. Poi il commercio del legname, un altro settore economico, però non così sviluppato come a Cortina d'Ampezzo. Poi interessante è l'argomento, il capitolo sull'atteggiamento dei fodomi nel rapporto con le autorità, con lo Stato, con la Chiesa. Questo atteggiamento viene descritto nei cosiddetti Volksstimmungsberichti, rapporti sull'atteggiamento della popolazione che venivano redatti regolarmente dal giudice e dove si possono trarre alcune notizie appunto sul comportamento della popolazione. Il giudice scrive: la fiducia verso le autorità provinciali e presso questa popolazione è di sicuro molto elevata. Il popolo stima le autorità, in special modo il gubernium di Innsbruck, il capitanato del circolo, e si sottomette prontamente alla legge. Non di rado desidera, in vero, sapere il motivo del modo d'agire, ma tosto diviene letto il passo della relativa legge, presentata un'ordinanza del gubernium o del capitanato e lui china approvante il capo. Erano fedeli, leali, e lo dice anche Cramer che scrive: quasi non si odono contestazioni del popolo ladino e dei suoi capi, anche se a volte ne avrebbero avuto motivo. Una popolazione tradizionalista, fortemente conservatrice, e lo si legge anche in un documento del 48, durante i moti del 48, dove i fodomi stessi scrivono: desideriamo e chiediamo che l'alta amministrazione statale lasci inalterate le nostre abitudini, i nostri diritti, gli esistenti monasteri, il clero, le corporazioni, gli istituti, il patrimonio ecclesiastico, ora come in futuro, e mantenga inalterato il giudizio nelle sue funzioni e non muti il nostro culto religioso. Punto più importante, il culto religioso. Era una società con una forte struttura patriarcale, il capofamiglia era il padre. Poiché qui non ci sono case del tutto isolate, ma senz'altro vi si trovano insieme di gruppi di abitati più o meno grandi, gli inquilini si fanno spesso delle visite secondo l'usanza italiana, soprattutto durante il periodo invernale. La priorità dell'uomo viene applicata con rigore. E Staffler aggiunge: nello stesso tempo un certo animo altezzoso domina gli uomini, che li fa essere duri principalmente contro le donne. Queste devono sbrigare a casa tutti i lavori più duri, mentre l'uomo se ne sta seduto accanto alla stufa e fuma comodamente la sua pipa. Bisogna anche dire che Staffler stesso non era originario di Divinalongo, era stato capitano a Brunico, però le sue ricerche non le ha fatte sul campo, ma sono notizie che ha preso da terzi, da un giudice, per esempio, che era a Livinallongo. Avevano anche i loro difetti, i fodomi. Si diceva nei documenti, erano più litigiosi dei marebani. Si sa. Poi ci fu la piaga dell'alcolismo. E si incolpava di questa piaga il commercio col legname. Si diceva che col commercio del legname sono entrati i vizi in valle. Può essere un'ipotesi, un'invenzione, non si sa. Comunque i fodomi incolpavano il commercio col legname, dicevano col guadagno, con i soldi, la gente andava nelle osterie e si ubriacava. Faccio un piccolo salto, arrivo al terzo capitolo, al quarto capitolo, gli elementi del quadro sanitario, dove faccio spiego un po', le patologie esistenti a Livinallongo, una serie di patologie, i nomi nosologici che venivano adottati erano nomi che al giorno d'oggi non è facile, attribuire a una malattia piuttosto che a un'altra, erano più che altro forme influenzali, infiammatorie, che riguardavano la gola, le parti respiratorie, i polmoni, la polmonite, la cosiddetta punta, come si diceva allora, o dolia. Poi c'erano le influenze intestinali, che andavano poi oltre. Il tifo era praticamente l'estremo. Il colera, a Livinallongo è scoppiato il colera 2 volte nell'Ottocento, c'era questa epidemia, però a Livinallongo per fortuna non si sono verificati dei casi, a Cortina d'Ampezzo sì, ce n'erano due. Poi la scabbia, una cosiddetta malattia endemica del luogo, legata alle condizioni igieniche. E in questo riferimento alla scabbia, il chirurgo Kugler spiega: forse alcuni credono che si tratti di un male necessario, poiché ne sono stati sempre affetti insieme alle persone che li circondano. E poi propone di provvedere di vasche certi distretti di case facilmente accessibili, dove l'intera famiglia potrà essere guarita contemporaneamente, facendo il bagno con un po' di sapone 1 ora al giorno a loro piacere per 8-14 giorni. E bisogna anche sapere che addirittura famiglie più agiate posseggono solo 2 camicie, che cambiano ogni 5-6 settimane e lavano la camicia ed il viso ogni domenica. Dunque, la scabbia era di casa. In un altro documento si dice che era il 5%, 6% della popolazione che non l'aveva mai contratta la scabbia. E poteva anche essere letale. Se non curata, la cura terapeutica, la terapia era abbastanza semplice, bastava un bagno nell'acqua allo zolfo o una pomata di zolfo. La falcadina, le malattie veneree. La falcadina, come già dite il nome, probabilmente originaria da falcade, una malattia venerea che è molto contagiosa. Che veniva contratta con il semplice contatto e per combattere e guarire la gente da questa malattia veniva eretto appositamente un ospedale a Noa, se non sbaglio, nel Veneto, vicino a Belluno. È stato fondato negli anni 20 e poi è stato chiuso negli anni 30, una decina di anni, quando poi è stata la malattia era scomparsa. Poi la tubercolosi, una malattia anche molto frequente. Quinto capitolo sull'assistenza ai poveri. I poveri, come dicevo, erano molti a Livinallongo, c'erano le fondazioni che davano sussidio a queste persone, che però dovevano essere degne di ricevere questo sussidio, dovevano essere i veri poveri, considerati come poveri, cioè bambini che non potevano lavorare, adulti che avevano perso il loro tutto quanto, non per colpa propria, ma per forza maggiore, per carestia o perché erano morti gli animali in seguito a un'epizoozia. Insomma, questi erano i veri poveri che ricevevano sussidio da questa fondazione. Tutti gli altri che potevano lavorare, che avevano la forza fisica, non venivano sussidiati, dovevano lavorare. Chi aveva bisogno di aiuto si rivolgeva spesso anche direttamente all'imperatore. Con un tipico frasario allora usuale in queste circostanze di sottomissione, cioè colui che inoltrava questa supplica, il supplicante, si sottometteva all'imperatore, e si capisce anche dalle parole che vengono usate. Carlo Antonio Chizzali, di Colle Santa Lucia, nel 1824 scrive: Sacra Cesarea Regia Apostolica Maestà, Sire. Essendo io sottosegnato Carlo Antonio Chizzali, nella provincia di Tirolo, circolo di Bruneck, distretto di Livinallongo, comune di Colle Santa Lucia, rimasto già 4 anni privo di padre e di madre, con numero 4 fratelli minorenni di età, nonché con 4 figli propri, privo affatto di alcun mezzo di sussistenza, il padre mi lasciò bensì una poca di terra o di campagna, ma che per pagare di debiti dovei vendere affatto tutta la campagna e restai privo fino del necessario ricovero di mia proprietà e privo affatto di mezzi di sussistenza per riparare alle famelliche mie piccole creature, essendo queste incapaci di guadagnarsi il pane quotidianamente. E chiude: più non mi dilungono, acciò la grazia che sono per ricevere non venghi più attribuita alla importunità delle mie preci, che ha la gentilezza di chi la concede, ma solo mi pongo genuflesso avanti i piedi della maestà sua, chiedendo umil perdono del tanto mio ardire di un infelice suddito in inviargli uno scritto ad un sì possente monarca, umilissimo, obbedientissimo, servo e suddito per sempre. Infine, e chiudo con il quadro con l'istruzione pubblica. A Livinallongo le scuole erano 8, erano nate già nel 1783 in seguito alla legge teresiana sulle scuole, e le scuole venivano denominate triviali perché si insegnava il trivio, leggere, scrivere, fare i conti, e naturalmente c'era anche l'insegnamento della religione. Iniziava a San Martino, 11 novembre più o meno, e finiva a San Giorgio il 23 di aprile. Veniva per questo anche chiamata scuola invernale o scuola feriale. Il giorno libero a Livinallongo era il giovedì, perché era il giorno in cui la popolazione si incontrava a Pieve, nel capoluogo. Era il giorno libero, si andava a scuola anche la domenica, dopo la messa. C'era il catechismo, la dottrina cristiana, poi c'era la scuola festiva, o di ripetizione per gli alunni che superavano il 13° anno di età, dovevano seguire la scuola di ripetizione per non dimenticare quello che avevano imparato. Molte volte si dimenticava con 5 anni o 6 anni di istruzione, se non ci si esercitava, si dimenticava. E poi c'era la scuola estiva, durante l'estate, per i più piccoli, quali durante l'inverno non potevano frequentare la scuola invernale per via dei problemi di natura pratica, la neve non glielo impediva. E la scuola d'industria per le ragazze, dove si imparava a cucire, a lavorare a maglia, eccetera. I maestri erano per la maggior parte i parroci, ma c'erano anche maestri laici approvati che però facevano anche, lavoravano come contadini, perché il salario di un maestro era talmente basso che non riuscivano a mantenere una famiglia. E infine faccio un breve riassunto, una sintesi sugli edifici scolastici che ci sono a Livinallongo, della condizione in cui si trovavano, e sulla l'unica borsa di studio, sulla borsa Faberiana. Con questo concludo. Naturalmente la ricerca non è ancora conclusa, si può andare avanti, ci sono periodi ancora non studiati, il 600, il 700, tutto il periodo medievale, il periodo protostorico, preistorico, dunque ce n'è ancora. Fece qui un accenno alla straordinaria intelligenza dei fodomi. Nasce di dire. Ma questo è il noveno minore le lietz da degun aperte. Te documenti, mi laurei tanto sui documenti. E c'è lei di mettere i documenti, a chi che le scritte, te chi ha. Ma chi lo dell'inventiva dei fodomi? Non so, le ben scritte che i fodomi e sentiva da Cesa, e giva laure, iva dei buoni laurenti, iva valenti, e laurava da San, ma de inventiva de John de Nou, non c'è penia. Che non vuol dire che ne si è venia. Si troci, si preves, pluans, che giva in Val Badia, a Feda Pluan, o ince della Val da Fodom, e giva a studiare per se non, la maggior parte. Gli artigiani che giva della Val Tegardana, si, Tegardana, della Val de Puster, Isaac, Busan, del Vasco, eh? Sì. E in cinque sternus fora. L'ha perduto. Il aveva un rapporto, ne aveva un rapporto con la Val di Fascia. I fasciani aveva i prei che giva solo a Pordo fora. Sì. Aveva un rapporto di vicinanza più che altro, eh? Sì. I giacari come un programma, per esempio. E quindi smetterà proprio questa, stiga bene. Saluti il signor Cristo.